Ci son cose che so meglio non scordarsi mai. Sopra un foglio scrivo quello che non rifarei. E se tu lo sai, sai che c'ho ragione. Dimmi con chi stai, perché al mondo ci son poche persone, cucci poche ma buone. Bruci tutte le ore a trovare qual è il migliore. Io c'ho poche persone a cui gli ho dato il mio cuore. Ed ogni stronzo che sbaglia per me è un uomo che muore. E così trovi chi un bel dì ti dirà che tra tutti i cucci c'è chi ci tradirà. Ed è qui che poi guardi com'è la realtà, contro chi hai dato da mangiare un tot di anni fa. Quando pensi tutto va bene, qualcuno poi ti pugnala. Lo stesso che offri da bere, domani ti rubo in casa. Disordine nel quartiere, la pula indaga. E se tentano di fregarmi ho i miei cani in strada. So chi dare le colpe, ma ora c'ho le prove. Chiamo tutti i miei amici e annuncio loro il suo nome. Ci sono cose che è meglio non scordarsi mai. La morale è una e il resto è combinare guai. Ci sono cose che so meglio non scordarsi mai. Sopra un foglio scrivo quello che non rifarei. E se tu lo sai, sai che c'ho ragione. Dimmi con chi stai e poi qual è il tuo nome. Ci sono cose che so meglio non scordarsi mai. Sopra un foglio scrivo quello che non rifarei. E se tu lo sai, sai che c'ho ragione. Dimmi con chi stai e poi qual è il tuo nome. E la city si è fatta star, molla i tuoi film e vivi là. C'è ancora chi nell'anima pure nel buio ancora brillerà. Io non vivo pensandolo al ragionevole, perché qui chi ti fotte non ha le regole. C'è chi si spaccia tra tanti per quello che non è. Io non mi fido degli amici, ancora meno in te. E nel buio ogni raggio ti taglia l'anima. Anche i bimbi hanno il nero scritto nel DNA. Altro che serie A, qui fuori serie fra. Dagli omis del CC ai cucci di città. Io non mi scordo della gente che sta ai piani bassi o ai piani alti dei palazzi. Bella G e gli altri, Santuzza sfonda semini perché noi siamo i gaggi. Chi pompa il suono a Quarto City, manca gente e Grammy. Ci son cose che so meglio non scordarsi mai. Sopra un foglio scrivo quello che non rifarei. E se tu lo sai, sai che c'ho ragione. Dimmi con chi stai e poi qual è il tuo nome. Ci son cose che so meglio non scordarsi mai. Sopra un foglio scrivo quello che non rifarei. E se tu lo sai, sai che c'ho ragione. Dimmi con chi stai e poi qual è il tuo nome.